24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. A me sembrano andati tutti fuori di testa. Assassino, lupara bianca, vivisezione il cane, no, vivisezione direttamente l'uomo, e questo sarebbero i leader, quelli che devono rassicurare il paese, cioè. Invece Angelino Alfano, lui sì, che rassicura il paese. No, dico Angelino Alfano, tutti fuori di testa. E va bene, cari italiani, d'altronde questa è la campagna elettorale più pazza del mondo, ogni volta si dice così per ogni campagna elettorale, quindi la prossima sarà più pazza di questa. Va bene, sono le 6:36 minuti, ci siamo anche oggi, sempre più tardi, ma ci siamo, con Miriam Lucchetti in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia e il nostro Parlamento che si può aprire. Forza, forza! Un caffè, sì. Il caffè volentieri a tutti quanti. Benissimo, molto bene, molto bene. Allora, voglio salutare Vladimir Luxuria. Buongiorno, come va Vladimir? Eccoci qua. Buongiorno, tutto bene, grazie. Gran bella campagna elettorale, Gran bella campagna elettorale. Devo dire che anche Alfano ci ha messo del suo, Cioè? Uno dice lupara bianca, quell'altro dice assassino, ma pure uno... Voglio dire, il ministro degli interni che dice che la magistratura dovrebbe lasciarsi condizionare dalle date delle elezioni prima di decidere se arrestare qualcuno o meno, anche questa me la sembra un po' una sparata grossa. Ecco, sì, sì, per l'arresto del presidente del Consiglio regionale della Campania, sì, ha detto è un po' sospetto, insomma, poteva aspettare le elezioni, effettivamente è candidato alle europee. Vabbè, ma insomma, Maurizio Tortorella, buongiorno, eccoci, vice direttore di Panorama, come stai? Buongiorno, tutto bene. Tutto a posto? Anche se effettivamente una campagna così triste, in questa dovrei subito chiamare Mario Adinolfi che dice ma dai è bella, ci divertiamo, assassino, ci si diverte, si dicono tante belle cose, sono tutte andate fuori di testa. Però tu ricordi, Maurizio, campagne elettorali più pacate, sono tutte così poi le campagne? No, per carità, è ovvio, la campagna elettorale è, se no che campagna sarebbe, però il livello mi sembra veramente bassino. Il livello è bassino, sì, abbastanza bassino. Allora, visto che c'è la par condicio, potete dare i voti, mi raccomando, con la par condicio. Vladimir Luxuria, chi è il migliore di questa campagna elettorale, il peggiore secondo te? Il migliore di questa campagna elettorale, secondo me, a livello di comunicazione, Renzi. Credo che sia Renzi. Sì. Allora io per par condicio dico subito Grillo. E tu, Tortorella, cosa dici? Come efficacia temo anch'io Grillo. Eh no, dovevi dire Berlusconi, scusa, c'era par condicio. Niente, vabbè, il migliore per Vladimir Lux è Renzi. Poi, Vladimir, il peggiore invece? Sinceramente Grillo, perché... Insomma, anche il fatto che aveva detto che lui talk show non ci sarebbe mai andato, la televisione è andato proprio dal re dei talk show. Poi anche le parole che usa... un po' troppo pesante, anche perché lui ha sempre questa voglia di stupire, no? Questa voglia che gli deriva anche dalla sua attività di comico, no? Di colpire, e poi deve trovare sempre delle parole nuove, no? E sempre buttare più in alto. Fra un po' quale accuse dirà, non lo so, quali termini userà. Vabbè, allora... il processo per il dopo elezione. Sì, per il processo. Allora, siccome Renzi è il peggiore, cioè Grillo è il peggiore per parlare di Luxuria, io dico Renzi il peggiore. Tu, Maurizio? Stavolta volevo... Vabbè, no, allora io dico Berlusconi il peggiore. E tu, Maurizio, che dici? Ma io dico Renzi. Ci hai pensato molti, ma Renzi. Renzi il peggiore. Vabbè, ma comunque arrivano appunto i processi. Ecco, io devo dire una cosa, sono un giornalista, quindi, ma non lo so, sarò un po' incosciente, sarò un po' che prendo tutto come una butade, un po' sorridere anche se sono cose serie, ma questa storia dei processi, vogliamo sentirlo ancora ieri Grillo? I giornalisti sono i primi da processare, ma a me sembra una cosa veramente, cioè che l'ascolto, faccio il giornalista, faccio e poi vado avanti. Abbiamo i giornalisti, che è la prima categoria che io metterei come responsabile, perché ci hanno fatto precipitare al 68esimo posto per la libertà di stampa. Siamo un paese semilibero e dovranno affrontare le loro responsabilità in rete, sempre in forma virtuale. Sempre in forma virtuale. Niente processi di violento, di aggressivo. Ah, vabbè, niente di violento, capito Maurizio, possiamo stare tranquilli, niente di violento, niente di aggressivo. Uno che si affida alle classifiche idiote. Sì, bravo, quello lo stavo dicendo anch'io, sono quella classifica sulla... Credo che l'Italia è in una situazione peggio del Ghana. Sì, infatti. Mi pare di per sé talmente da teste di... Che... No, questo devo dirlo anch'io, queste classifiche sulla libertà di stampa le ho sempre considerate... Nei quali c'è, puoi leggere tutto e il contrario di tutto, sì. La stessa giornata, ascoltare su 3 TV diverse, tutto e il contrario di tutto. Hai uno spettro di libertà di opinioni folle. Sì. È una cazzata senza fine. Eccolo lì, ecco l'editoriale di Maurizio Totorella. Anche secondo me comunque l'idea di queste classifiche alla libertà di stampa che ci pongono sotto dei paesi africani mi sembrano le cose, ma andate in Egitto a dire qualcosa, a scrivere qualcosa contro, che ne so, la religione musulmana, per dire. E poi vedete un po' se la libertà di stampa è migliore in Egitto, perché magari queste classifiche ci pongono sotto all'Egitto, eccetera. Qui in Italia effettivamente ci sono giornali, testate che possono dire tutto quello che vogliono liberamente, come è giusto che sia, come sacro santo è giusto che sia. Poi per carità, tutto è migliorabile, voglio dire. Ma sì, ci sono sicuramente troppi editori legati alla politica, editori poco liberi, eccetera. Va bene, però dire che non siamo... Vabbè, ma comunque Vladimir Luzzura, tu sei tranquilla, tanto a te giornalista non sei come processi non succederà niente. No. Diciamo che in Italia c'è anche la libertà di istigazione all'odio, perché poi se uno dice, evoca la lupara bianca nei confronti di un avversario politico, insomma, siamo oltre la libertà. E poi sì, evocare anche il processo ai giornalisti, condannare la stampa, vabbè, ci stiamo. E poi dopo che fai? Per la tua campagna elettorale vai nel salotto che rappresenta proprio il guru vai da Vespa. Ma non lo so, c'è qualcosa che non va qui. C'è qualcosa che ma lì doveva prendere i voti. Poi la rete che giudica, ma chi è la rete? Diciamoci la verità, la rete sono Grillo e Casaleggio, questa è la verità. Come anche la formazione del governo, è la rete che decide i ministri e poi in un'intervista Casaleggio con quella faccia da serial killer americano che dice sì, ok, siamo pronti a fare i ministri, ma io non lo so, cioè, ha smentito, attenta, ha smentito, ci ha fatto un'intervista di 2 pagine con Travaglio, video, c'è anche il video, e poi ha smentito, ha detto non ho mai manifestato la voglia di diventare ministro. Ha detto perché no, so, potrei fare il ministro. Com'è la faccia da serial killer americano? Adesso io non voglio peccare di fisiognomica, però mi sembra uno di quelli, sai, che hanno qualcuno fatto a pezzi nel freezer. Mi inquieta molto, devo essere sincera. Addirittura, comunque sentiamolo Casaleggio, il passaggio incriminato. Ma lei il ministro farebbe tecnico esterno? Dipende dal movimento, se volesse farlo. Ah, interessante. No, sai, non... Quale del ministero le piacerebbe? Se dovessi scegliere una carica, sceglierei quella dell'innovazione. C'è da dire che però ha detto dipende dal movimento, Maurizio, cioè dice non è che voglio fare il ministero, ha detto dipende dal movimento, no? E loro scelgono così, tutto con la rete. E poi se dovessi scegliere, cioè se il movimento scegliesse, scegliere l'innovazione. Com'è questa dei... Tu andresti a controllare i frigoriferi di casa a Casaleggio, Tortorella? No, no. Mi guardo bene. No, nel senso che... No, non lo so perché è serial killer americano. Boh. Certo, da quel punto di vista. Il freezer, quello del pozzetto dove sarebbe nascosto di tutto. No, non lo so, ma no, non credo che sia un killer. sicuramente è un personaggio a, a suo modo inquietante, insomma, interessante sotto certi aspetti, ma inquietante sotto altri. Inquietante. Vabbè, c'è chi mi scrive: Milan, ma davvero voti Grillo? Ma siamo in par condicio, il conduttore non può dire nulla, ma siamo matti, ci viene qui l'antitrust, chiude tutto. Se io dicessi le intenzioni di voto, è la prima regola della par condicio, insomma. Vladimir Luxuria può dirlo, forse. Tu cosa voti? Non lo so se puoi dirlo, però tu dillo. Si può dire? Posso dirlo o non posso dirlo? Non lo so. Allora meglio che non lo dico. No, gli ospiti sì, dai, il conduttore non può assolutamente. Ah. Beh, io voto la lista Tsipras. Eh beh, certo, è stata onorevole, diciamo, di quell'area lì, e quindi la lista Tsipras. Maurizio non... No, io non lo dico. Non lo dico. Tra l'altro, francamente, ho dei dubbi disastrosi su questa elezione. Dubbi di che tipo? Cioè, non sai chi votare? Non saprei veramente chi votare. Non sapresti chi votare. Intanto Berlusconi dice di non avere mai dato dei coglioni a chi votava a sinistra. Berlusconi. Io non ho alzato il terzo. Guardi, io non accetto questa definizione di avere alzato tono. Intanto io non faccio come Grillo, non grido mai. Parlo sempre in maniera tranquilla e ponderata. Vabbè, ma non è questo delle alzate i toni, cioè quello invece dei che ha dato proprio, no? Che non ha dato, secondo lui. Una volta lo stesso Renzi mi ha accusato di aver dato dei coglioni a coloro che votano la sinistra. Non è vero. In una occasione privata davanti alla giunta dei commercianti, quando uno ha detto ma i nostri forse lo votano, ho fatto un'osservazione e gli ho detto scusi, non credo che ci siano dei coglioni che sia contrario, scusi, però, insomma, poi... votano una cosa contro il loro interesse. Okay, sì. Cioè Vladimir, no, per negazione ha detto che non credo che uno sia, che non vuol dire che è. Ma che non credo che uno possa essere così tanto, vabbè, insomma, non ho, credo che abbia dato dei coglioni, però insomma, adesso non lo so. Una volta si diceva sono solo due gatti che votano quel partito per mantenere quel numero di due, adesso sono coglioni che votano vabbè. Dai, andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi rientriamo. 24 mattino. Perché non votare significa far continuare a rubare questa gente che ruba, di ladri, di politici che ci governano. E l'unica arma che abbiamo è quella di votare. Che sonno che mi ha fatto venire Berlusconi. Oddio, ma che aveva qualche suggeritore dietro da come parlava? Forse era Gianni Boncompagni che gli suggeriva quello che doveva dire per poi parlare. Mi sono svegliata solo adesso perché mi ha fatto solo addormentare. Presidente Berlusconi, noi non siamo creduloni e nemmeno deficienti, siamo solo diffidenti. Hai promesso occupazione di italiani di 1 milione di pensione garantisti ai pensionati, soprattutto squadrinati. Le promesse sono promesse, ma per te sono solo scommesse. Dammi un buon motivo per andare a votare domenica alle europee. Io non ne riesco a trovare uno, sinceramente. Allora, se andiamo a votare, fanno quello che gli pare. Se non andiamo a votare, fanno quello che gli pare uguale. Dunque non perdo neanche il mio tempo, quantomeno mi resta la soddisfazione che non l'ho votato. Giornalisti merdosi, pennivendoli, gente da niente, dovreste essere tutti radiati dall'albo. Un vero giornalista non prende mai posizione, non deve agguerrirsi contro il politico che va lì nelle tavole rotonde, dovrebbe soltanto far confrontare i politici, farsi portatore di notizie. Il giornalista deve portare le notizie. Disgraziati delinquenti. Hai capito, Maurizio? Eh? Hai capito? Vladimir Luxuria se la ride tanto, lei mica è giornalista, ma che gli frega? Insomma, hai capito, Maurizio? Hai preso nota della lezione, no? Infatti non ho detto per chi voto. Tu hai un'opinione? Farabutto pennivendolo, disgraziato da radiare dall'albo. Oh, l'albo è cancellato. Quindi, cioè, vabbè, il clima è anche questo, Vladimir, anche nelle telefonate, insomma, dei nostri ascoltatori. La segreteria. Sì, c'è una certa violenza. Ma violenza adesso. Cioè. Ma sì, dai. Se vento raccoglie tempesta, vediamo che cosa succede. Oh, quella minaccia di Maurizio Tortorella, No, la paura, non la minaccia. io invece li adoro, i vostri ascoltatori. Secondo me voi fate dei casting. Ci sono gente che parla in rima. Sì, vabbè, questo si è generato. Cioè, ci sono persone che insomma si soddisfano così. E d'altronde va bene, ma la nostra segreteria è un cult ormai, assolutamente. Allora, io ci sono tante notizie, vorrei far tornare, dopo che ieri la vicenda è uscita sui giornali, su questa vicenda dei 4 euro 4,44 euro, le mense scone senza dolce. Allora, ci sono le polemiche, c'è chi dice, anche qui i giornalisti avete strumentalizzato. Oggi il sindaco di Pomezia, che è del Movimento 5 Stelle, si difende sul Corriere, dice è normale, insomma, abbiamo deciso così dopo un percorso di condivisione con i genitori. Tu, Vladimir, che ne pensi? Che è uno schifo, veramente uno schifo. Mi disgusta questa cosa. Pensare che ci siano dei bambini dell'asilo, delle scuole elementari, che si mettono a mensa e ti arriva la roba da mangiare, alcuni hanno la merendina e altri no, che se hanno pagato 40 centesimi in meno, è una vergogna, perché queste cose per i bambini sono... non è una passeggiata, queste cose i bambini le notano e cominciano a pensare: per cosa ho io in meno degli altri? Si fanno dei complessi di inferiorità. È grave questa cosa del sindaco, sicuramente, ma è grave anche la posizione del ministro dell'istruzione, che dice in nome dell'autonomia scolastica questo va bene. Allora, se un giorno uno dovesse fare le classi per i ricchi e le classi per i poveri, in nome dell'autonomia scolastica va tutto bene. C'è da dire che mi ha un po' colpito, al di là delle strumentalizzazioni, Maurizio, al di là del fatto che il Movimento 5 Stelle adesso si difendono questioni elettorali, che ne pensi di... Ma mi pare che ci sia una grande esagerazione, anche l'idea adesso di Vladimir Luxuria, che un giorno possano esserci classi per ricchi, classi per poveri, mi pare francamente una boutade senza senso. Non mi sconvolgo. Uno va a scuola vestito bene perché questa famiglia non va a scuola vestito, ma è sempre stato così, per carità. Non bisognerebbe evitare discriminazioni, anzi, ma questo sì, però l'idea diceva anche ieri qui ai microfoni Fassino, è fai una divisione giustamente in base al reddito: chi ha più reddito paga di più la mensa, chi ne ha meno, però alla fine dai lo stesso cibo, no? Per evitare queste divisioni sulla tavola. Però io vi devo salutare, il tempo qui vola. Voglio ricordare solo la copertina di Panorama: imbrogli elettorali, questa è la copertina che trovate di Panorama, ce l'avete con Renzi, i famosi 80 euro. Ma vi devo salutare, grazie, alla prossima, Vladimir Luxuria e Maurizio Tortorella. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Vi siete destati, cari debosciati italiani, alle 7:19 minuti. Forza, forza! Questo è 24 Mattino. E siamo qui adesso a leggere i giornali per voi e con voi. Vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 il ministro degli esteri Federica Mogherini a parlare dell'attualità internazionale, la Libia in primo piano, ma anche con ciò che comporta sulla questione degli sbarchi e dei migranti. E poi avremo ospiti per parlare di questi ultimi scampi di campagna elettorale, che è due esponenti, uno del Movimento 5 Stelle, Carla Ruocco, e poi Simona Bonafè del Partito Democratico, candidata

gli porterò le indicazioni comuni che condivideremo con anche gli altri paesi europei e della parte occidentale del Nord Africa. Innanzitutto che tutte le parti in Libia lavorino insieme per costruire istituzioni democratiche ed un assetto dello Stato, che è quello che veramente manca in quel paese e che a cascata rende impossibile gestire una serie di problemi. Quindi la strada del dialogo nazionale tra le diverse parti che può consentire l'ordine pubblico e la sicurezza. Sì. Poi lavoreremo sul fatto che siano le Nazioni Unite a coordinare il sostegno internazionale. Molti paesi, tra cui prima fila l'Italia, stanno facendo o sono intenzionati a fare un lavoro di cooperazione con la Libia, soprattutto sulla sicurezza del paese internamente, cosa importante anche per le tante presenze straniere che ci sono. Pensiamo ai tanti italiani che sono lì per lavorare, per le relazioni ovvie bilaterali che abbiamo con quel paese e per il controllo delle frontiere. Noi siamo convinti che questo lavoro che tutta la comunità internazionale è disposta a fare vada coordinato in una sede più alta, quella delle Nazioni Unite. Quindi dell'ONU, cioè anche il controllo delle frontiere. Ecco, a proposito delle frontiere, si citano cifre di centinaia di migliaia di persone disposte a partire per raggiungere il punto di approdo, ovviamente è l'Italia. Lei ci può confermare queste cifre che circolano di centinaia di migliaia di migranti? Ma è evidente che nel momento in cui ci sono più conflitti sia in Africa che nel Mediterraneo e c'è un paese che è un facile corridoio perché non c'è entità statale capace di controllare il proprio territorio e le frontiere, 2 più 2 fa 4, il meccanismo di transito è quello ed evidente, e anche di questo parleremo oggi. Ma mi scusi, l'ONU come dovrebbe controllare le frontiere? Cioè mandando... No. Io ho detto che il nostro lavoro sarà volto al fatto che le Nazioni Unite coordinino gli interventi nazionali, cioè delle singole nazioni. Noi dobbiamo concentrare l'azione politica e concentrare gli aiuti. Ci vuole un coordinamento, altrimenti ognuno fa da sé. Non ho detto che le Nazioni Unite devono controllare le frontiere, anche perché questo ovviamente in una situazione del genere richiederebbe scenari diversi. Ecco, una cosa importante che non dobbiamo fare in Libia è fare degli errori che potrebbero peggiorare la situazione da parte della comunità internazionale. Quindi penso, lo dico chiaramente, che nessuna opzione militare di nessun genere in questo momento sia assolutamente non solo auspicabile ma neanche immaginabile. Ecco, a proposito di è chiaro. A proposito di opzioni militari, la storia ovviamente non si fa con i se, questa è la prima regola, ma sinceramente per lei è stato un errore abbattere Gheddafi qualche anno fa? Ma al governo c'era qualcun altro, come tutti si ricorderanno, ma il punto lì non era tanto abbattere Gheddafi dal mio punto di vista, era il fatto che era scoppiata una vera e propria guerra civile con un numero di morti impressionante che andava avanti da un po' di tempo e che non accennava a risolversi. Il punto vero è che dopo quell'intervento probabilmente non ci fu un sostegno della comunità internazionale al processo di transizione libica che adesso stiamo dicendo, forse troppo tardi, ma speriamo di no, che deve essere sostenuto pienamente dalla comunità internazionale. La scelta in quel momento non era tra abbattere un dittatore e invece garantirne la sopravvivenza. Il punto in quel momento era intervenire in un conflitto aperto, civile. Il punto vero è che a quello non è seguito un lavoro di costruzione reale delle istituzioni, certo, che poi consentissero la transizione. E la situazione purtroppo in questo momento è abbastanza caotica. A proposito di immigrazione, secondo lei l'Unione Europea ci ha davvero abbandonato? Perché il Premier Renzi ha detto si aiutano le banche e si lasciano morire le persone nel mare. C'è questo senso di abbandono totale da parte di Bruxelles all'Italia? Ci sono sicuramente delle mancanze che l'Unione Europea ha avuto in questi anni nel capire la gravità del fenomeno e nel mettere in piedi politiche capaci di gestirlo, perché bisogna fare tutte e due le cose insieme: salvare le vite in mare, e le immagini dei bambini sui barconi penso che debbano richiamare quel minimo di umanità che è rimasto dentro di noi, se ancora ce n'è, e gestire razionalmente il flusso e di immigrati e di richiedenti asilo. Serve una politica europea per fare questo. È chiaro che per fare una politica europea serve anche un'Europa che sia di fare delle politiche, sì. Cosa che in questi anni, per una scelta precisa anche di alcuni governi, in alcuni anni anche quello italiano, non c'è stato un investimento nella dimensione europea del fare scelte politiche. Perché sa, a Bruxelles ci dicono invece i soldi noi li diamo, vanno gestiti bene, non ci chiedono altri aiuti dagli stati e quindi noi non possiamo fare altro. Ma non è solo una questione di soldi, è anche una questione di soldi, perché noi spendiamo molto per l'operazione Mare Nostrum, e devo dire che da questo punto di vista c'è un apprezzamento internazionale, io l'ho riscontrato in sede Nazioni Unite, in sede UNHCR, molto forte, cosa che ci consentirà poi di poter lavorare con l'Agenzia delle Nazioni Unite nel momento in cui la Libia avrà un minimo di stabilità anche sulla gestione dei flussi di rifugiati. Ma c'è bisogno, dicevo, anche accanto ai soldi, c'è bisogno di una politica europea, c'è bisogno di definire il fatto che, per esempio, i richiedenti asilo che arrivano, sono in maggioranza richiedenti asilo sulle coste italiane, non hanno come obiettivo principale quello di restare in Italia, ma quello di muoversi altrove. Bisogna, questo certamente. Bisogna rivedere le politiche, bisogna costruire politiche europee. Però, questo anche, no, ma è chiaro, le chiedo questo, Ministro Mogherini, la Lega chiede per esempio ci siano i respingimenti dei barconi, alcuni stati lo fanno, secondo lei la politica dei respingimenti è possibile? Il nostro paese l'ha fatto in passato ed è stato uno dei momenti più bui della nostra immagine internazionale e credo anche della nostra coscienza nazionale. La frase con la quale viene accolta per prima ogni mia richiesta in tutte le sedi internazionali, e pongo il tema in tutte le sedi internazionali, di condividere con l'Italia la responsabilità del salvataggio delle vite umane e della gestione dei flussi migratori, la prima frase con la quale questa richiesta viene accolta è: riconosciamo con grande favore che l'Italia ha cambiato politica e che non c'è più la politica di respingimento. Quindi dal mio punto di vista è primo un dovere morale, perché non si può non salvare vite in mare. Pensiamo a quei bambini sui barconi, pensiamo alle mamme, pensiamo alle tantissime persone che scappano da situazioni di conflitti e di guerra, sì, e pensiamo che è una nostra responsabilità precisa come esseri umani, prima ancora che come politici. Le chiedo anche secondo, ci dà quella credibilità per dire agli altri paesi: aiutateci a gestire questa situazione, perché noi stiamo facendo la nostra parte. Le chiedo anche se non è una battaglia di retroguardia quella di chiedere la sede della Frontex da Varsavia che venga in Italia. Ieri ancora il ministro Alfano l'ha chiesto. È davvero così importante avere la sede, oppure è una questione solo di palazzi? No, non è chiaramente una questione di palazzi, è una questione importante, è una questione anche di simboli. L'Unione Europea ha concentrato e concentra in teoria la sua attenzione sul Mediterraneo, sulla sua sponda sud. Questi ultimi mesi ci hanno un po' portati più a est, la crisi ucraina, che è molto grave, che è molto seria, non deve però farci dimenticare che il grosso del nostro bacino di riferimento, il nostro luogo naturale, la nostra frontiera naturale più ampia è quella del Mediterraneo, e quindi è la richiesta di un segno di attenzione che resti e che si consolidi. A proposito di Ucraina, che lei ha citato, l'Italia rischia a livello di forniture di gas, visto che ci approvvigioniamo anche lì, e per questo qualcuno dice l'Italia è timida a intervenire in questa crisi? No, non siamo stati affatto timidi, anzi, abbiamo dall'inizio contribuito a creare una situazione in cui l'Europa e anche il G7 e anche le altre sedi internazionali, penso all'OSCE che in questi giorni sta facendo un ruolo molto importante per il dialogo nazionale in Ucraina e per far svolgere le elezioni in Ucraina, abbiamo avuto un ruolo dall'inizio molto definito. È stato un ruolo che ha da subito escluso che ci potesse essere un'opzione militare, però dobbiamo anche smettere di pensare che se uno non propone l'opzione militare ha una posizione debole, ha una posizione diversa che può essere anche molto forte, ma non quella muscolare, ecco. Certo. Si può essere politicamente forti senza invocare l'intervento armato o necessariamente un aumento di sanzioni, quando il principale obiettivo non è quello di imporre sanzioni. Le sanzioni sono eventualmente uno strumento, ma l'obiettivo deve essere quello di risolvere la crisi. Questo certamente. Ancora due o tre domande. Una riguarda la vicenda dei Marò, che ogni tanto compare, vero che sono solo due persone, ma sono molto di più, no? Nel senso che sono due persone, però giustamente vanno sulle prime pagine dei giornali, però non si capisce come l'Italia non riesca da due anni, non dico a farli portare qui liberi, ma almeno farli processare per quello che è successo in India. Ma davvero cosa serve per sbloccare quella situazione, Ministro? Io non parlo dei due anni passati, ne parleremo quando questa situazione sarà risolta. Io posso dire quello che abbiamo fatto in questi tre mesi. Noi abbiamo innanzitutto tenuto un contatto costante, non sempre pubblicizzato, ma costante con loro due e con le loro famiglie, perché pensiamo che ci sia anche un lato umano fondamentale di coinvolgimento e di vicinanza nostra a loro e loro coinvolgimento nella gestione di questa cosa, nel sapere che cosa succede. E abbiamo cambiato strada, abbiamo detto prima di tutto internazionalizziamo la vicenda, non è una questione bilaterale tra Italia e India, è una questione di disputa tra due importantissimi stati su chi deve esercitare la giurisdizione. dal momento che riguarda due fucilieri di marina impegnati in una missione antipirateria con un'immunità funzionale. Quindi c'è un sistema internazionale di contrasto alla pirateria che rischia di essere messo in discussione se questa disputa non viene regolamentata. Quindi noi abbiamo avviato l'internazionalizzazione della gestione della situazione e a questo punto siamo. Questo è quello che abbiamo fatto. Certo, questi in tre mesi. Non era stato fatto prima. Però date non se ne possono dare. Cioè date non su... Non sarà presumibilmente un percorso facile né un percorso particolarmente breve. Spero di poter essere smentita, ma penso anche che dobbiamo essere realisti e dire la verità sia a loro che agli italiani. Certo. L'importante però adesso è aver imboccato la strada giusta e andare avanti con determinazione e con unità nazionale su questa strada. È importante che mostriamo e al mondo e all'India e anche ai nostri due marò che c'è tutto il paese dietro questo impegno. L'ultima domanda che le faccio è questa: lei alle elezioni europee teme queste spinte anti-europeiste? Le teme davvero oppure si sgonfieranno? Non posso dire, non lo so. So per certo che temo che l'Italia possa essere rappresentata in Europa in modo non utile. Noi abbiamo capito in questi anni di crisi, penso come mai prima, quanto le decisioni che vengono prese a Bruxelles incidano profondamente sulla nostra vita quotidiana. Sono scelte importanti. La cosa fondamentale è che l'Italia abbia la forza in Europa di determinare un cambio di politiche europee, di costruire politiche europee laddove mancano o laddove sono insufficienti, penso ai temi dell'immigrazione, di costruire politiche diverse, penso per esempio al settore dell'economia. Noi abbiamo lavorato, l'Italia, l'Europa ha seguito la strada dell'austerity, austerity, austerity in questi anni. Penso che sia il momento di affiancare al rigore dei conti pubblici un po' di flessibilità sugli investimenti. Noi abbiamo una regola, quella del 3%, alla quale ci siamo vincolati e ci rispetteremo. C'è però modo e modo di interpretare questa regola, sì. C'è modo di inserire degli investimenti per la creazione di posti di lavoro, soprattutto per i giovani, e per lo sviluppo accanto alle misure. Beh, questo lo vedremo, è un po' anche la linea, immagino, del semestre a presidenza europea dell'Italia. Intanto la ringrazio, Ministro, per essere stata con noi. Grazie, grazie a Federica Mogherini, Ministro degli Affari Esteri. Dopo la pubblicità, tra 5 minuti, noi invece ci concentreremo appunto su questa campagna elettorale. Avremo ospite Simona Bonafede del Partito Democratico e Carla Ruocco con il Movimento 5 Stelle. State con noi. 24 mattino. Allora, scampoli ultimi di campagna elettorale per le europee. Dopo aver avuto il ministro degli esteri Federica Mogherini, vogliamo discutere con Simona Bonafè, che è deputato e capolista del PD alla circoscrizione centro, dunque eurocandidata. Buongiorno e benvenuta, ben ritrovata Bonafè. Sì, buongiorno a lei. Così come saluto Carla Ruocco, deputato del Movimento 5 Stelle, vicepresidente della Commissione Finanze. Buongiorno e ben trovata Ruocco. Buongiorno a tutti. Allora, intanto partirei dalla dichiarazione che Renzi ha fatto, a dire non è un voto sul governo, non è un referendum sul governo. Perché invece voi, Ruocco, insistete a dire dopo questo voto bisognerà vedere che succede al governo, non si vota per l'Europarlamento? Ma è chiaro che anche un voto sull'operato del governo, il fatto che Renzi comunque non prenda in considerazione la volontà popolare non è la prima volta, d'altronde è stato anche eletto da un manipolo di suoi adepti all'interno del partito e non è passato per le urne come invece aveva detto di fare, quindi è in perfetta incoerenza con lo stile renziano. In realtà è un voto sul governo e sul suo operato ovviamente pessimo, perché lo dimostrano i parametri economici che sono in caduta libera. Quindi addirittura lei proprio dice è un voto sul governo, cioè è Renzi sì, Renzi no. Conferma insomma che questa linea del Movimento 5 Stelle dovesse andare bene dal punto di vista elettorale, il giorno dopo chiedete in qualche modo che ci siano nuove elezioni. Noi rispettiamo la volontà popolare, se il Movimento 5 Stelle sarà vincente chiederemo questo, se sarà vincente Renzi non lo chiederemo, comunque continueremo la nostra serrata opposizione ad un governo che non è il governo dei cittadini. Sul vincente, perché io l'ho chiesto anche ai suoi colleghi, sul vincente cosa vuol dire? Cioè prendere un voto in più, arrivare vicino, cioè voi considerate una vittoria essere il primo partito? È chiaro che è un voto in più per un governo che vuole reggere, vuole fare delle riforme all'altezza di questo paese, non è assolutamente sufficiente. A Renzi serve un ampio margine, questo significherebbe per lui essere vincente. Quindi fosse, che ne so, foste voi a 2-3 punti percentuali, faccio delle ipotesi. Anche di più, guardi, per un governo che vuole avere dignità ci vuole un ampio margine, sì. Si parla perlomeno di 7-8 punti, se vuole avere una sua struttura, altrimenti facciamo l'armata Brancaleone. Va bene, onorevole Bonafè, insomma, è pronta a capire, si sposta subito uno scontro su questo tipo, se non prendete 7-8 punti in più in percentuale rispetto al Movimento 5 Stelle non siete abbastanza forti, siete un'armata Brancaleone non in grado di governare, che risponde? Vedo che il Movimento 5 Stelle pensa di decidere tutto in questo paese, cioè richiama la volontà popolare ma poi decide quanto deve prendere il Partito Democratico per essere degno di stare al governo, francamente mi sembra un po' una presunzione un po' eccessiva. Io guardi, preferisco però dirle un'altra cosa, che intanto ricordare alla collega Rocco che i parametri economici di questi giorni che effettivamente registrano un calo del PIL ci portano a fare un altro tipo di considerazione, e cioè che o questo paese si mette in moto o questo paese porta avanti il processo di riforme avviato così come hanno fatto altri europei, oppure noi la ripresa non la agganceremo mai, perché proprio il fatto che i parametri economici stiano in libera caduta ci mostra quanto è difficile la ripresa e quanto c'è bisogno per la ripresa di fare riforme. E quindi io, ecco, francamente ritengo che abbiamo sprecato un'altra occasione, perché guardi, una campagna elettorale per le elezioni europee, per mandare i parlamentari europei e quindi i parlamentari che devono portare avanti in Europa un altro tipo di politica, sì, economica, perché abbiamo visto che gli effetti di questa crisi sono effetti di una politica dell'austerity dalla quale dobbiamo uscire. Beh, allora avremmo potuto parlare un po' di più di questi temi in campagna elettorale, non della vivisezione di Dudu della Lupara Bianca. Io, ecco, le dico questo, non ho capito per esempio quale idea di Europa ha il Movimento 5 Stelle, visto che da una parte ci dice che dobbiamo uscire dall'euro e dall'altra ci propone gli euro. E tra poco lo chiederemo a Carla Ruocco, anche perché l'accusa che si fa è dire parlano i parlamentari ma si conoscono poco gli eurocandidati del Movimento 5 Stelle. Prima però, onorevole Bonafè, le faccio anche questa domanda. Lo spread che aumenta è il timore dei mercati, è legato, come dice il Premier Renzi, alla paura che genera Beppe Grillo, la paura che genera il Movimento 5 Stelle? Non le sembra una visione un po' troppo, come dire? Più che altro, guardi, noi abbiamo visto grandi manifestazioni in piazza dove appunto si è solleticata un po' la pancia degli italiani, dove si è soffiato sul taglio sociale, dove si è sostanzialmente urlato, dove è stata la protagonista assoluta la protesta, ma non siamo arrivati al punto vero, cioè a capire quali sono le idee, qual è la proposta. C'è tanta rabbia nelle piazze e non c'è invece l'idea di come vogliamo tirar fuori questo paese, che da una parte. E questo incide sugli spread, incide sui mercati? Dall'altra, questo potrebbe incidere sui mercati. Io penso invece che questo voto potrebbe premiare l'azione di chi invece si sta rimboccando le maniche e sta cercando di dare le soluzioni a questo paese, perché guardi, la mole di riforme che ha messo sul tavolo Renzi in 80 giorni, vogliamo dire quantomeno che è inedita nella storia della nostra Repubblica? Mm-hmm. Certo, dobbiamo andare avanti, perché parliamo spesso di Europa, però per esempio abbiamo un mercato che non rispetta i criteri europei, sì, cioè abbiamo 46 forme contrattuali. Ma è chiaro, allora vediamo che tipo di Europa vuole il Movimento 5 Stelle, detto che, ve lo leggo in presa diretta poco fa, Berlusconi, ovviamente adesso sono tutte dichiarazioni che si fanno in questi momenti, ha detto questo governo è un governo di dilettanti allo sbaraglio, questo ha detto Silvio Berlusconi poco fa. Onorevole Ruocco, che tipo di Europa vuole il Movimento 5 Stelle? Intanto rispondo alle affermazioni della signora Bonafè. Punto primo, evidentemente lei non è al corrente di ciò che avviene per esempio in Commissione Finanze a livello di proposte del Movimento 5 Stelle. Già c'è da mesi la nostra proposta con opportune coperture di eliminazione e abrogazione dell'IRAP e il Partito Democratico l'ha fatta surclassare da invece il regalo che ha voluto fare alle banche private di 7 miliardi e mezzo dei soldi dei cittadini che sono transitati nelle banche private. Quindi il Movimento Movimento 5 Stelle ha proposto l'abolizione dell'IRAP, questa è stata affossata dal Partito Democratico che ha preferito fare regali alle banche. Quindi lei deve informarsi su ciò che accade nelle commissioni tecniche prima di venire in radio a dire cose che non corrispondono al vero. Seconda cosa, ha anche ammesso che il governo Renzi ha perso altri 3 mesi di tempo e questo, come diceva giustamente, è confermato dai parametri economici in caduta libera. Renzi aveva promesso che in 3 mesi avrebbe già fatto tante cose che ad oggi risultano totalmente. Però questo, diciamo, è il dibattito nazionale, no? No, volevo rispondere. Sì, sì, certo, certo. Nel momento in cui mi si dice. No, ma è chiaro, va bene, ha risposto. Invece sull'Europa che visione avete? Che Europa vorreste? Quando riguarda l'Europa, noi vogliamo un'Europa diversa da quella che è stata votata dai partiti che adesso la sconfessano, cioè un'Europa dei cittadini. Noi non vogliamo uno Stato italiano che comunque sia costretto a dare all'Europa per un trattato folle, firmato e votato dal PD, del PDL, tutti i partiti che adesso dicono che questo trattato non va bene. Cioè il fiscal compact. Sulla base di questo trattato, il fiscal compact, l'Italia deve dare 50 miliardi all'anno per 20 anni e non ce la potrà mai fare. Queste sono state condotte delle scelte folli, lontane dalle logiche che portano benessere e futuro ai cittadini, soprattutto dell'area mediterranea, e quindi vogliamo assolutamente ribaltare il tavolo e le logiche di questa Europa che ci ha fatto del male. No, ma è interessante, ricostruire immediatamente, con urgenza, un'Europa completamente diversa, allora, un'Europa delle comunità, dei popoli e dei paesi. Ripartiamo da qui, è interessante, dopo il traffico, per esempio, abbattere quel fiscal compact che è stato votato dal Parlamento italiano ed è stato votato anche quindi dal Partito Democratico, e questa è l'accusa che viene fatta da Carla Ruocco a Simona Bonafè. Eccoci qui, allora faccio un paio di domande all'eurodeputata candidata Simona Bonafè, anche perché ci lascia con 2 o 3 minuti d'anticipo rispetto alla chiusura della trasmissione. Intanto, onorevole Bonafè, la questione del fiscal compact, adesso non potete, dice il Movimento 5 Stelle, lavarvi le mani da quello che è stato votato dal Parlamento italiano, è questa Europa che ci avete imposto? Allora, intanto però mi faccia replicare alla collega Ruocco, perché insomma va bene mistificare la realtà, però ogni tanto i documenti bisognerebbe leggerli quando si è in Parlamento, perché nel documento di economia e finanza noi già abbiamo previsto un taglio dell'IRAP del 10% e siamo andati a finanziarlo proprio adeguando la tassazione sulle plusvalenze bancarie a livello europeo. Che non è l'abolizione, loro prevedono l'abolizione. Però è una, ma guardi, è una forse per questo prevedono anche il reddito di cittadinanza a tutti, che costa 19 miliardi allo Stato, e non ci hanno ancora detto come andare a recuperare questi 19 miliardi, però al di là di quello, intanto c'è stata una riduzione che, per carità, non risolverà i problemi della tassazione delle imprese, ma vuol dare un segnale alle imprese, cioè vuol dire alle imprese stiamo attenti alle vostre esigenze, oggi le esigenze delle imprese sono le esigenze anche di abbassare il livello di tassazione. Questo per dire che non siamo andati a tassare il lavoro, siamo andati a tassare la rendita finanziaria. Sì. Questo è il primo punto che volevo chiarire, perché sennò davvero si fa anche demagogia, non mi pare corretto nei confronti degli istituzioni. Per quanto riguarda invece il fiscal compact, è vero che il fiscal compact è stato votato anche dal Partito Democratico, è vero anche che questa politica d'austerity è una politica che è stata firmata da Silvio Berlusconi in Europa, è stata firmata dai partiti conservatori. È chiaro, quando si firma un impegno a livello internazionale, il Parlamento che cosa deve fare? Quindi mi pare che, ecco, francamente... poteva essere respinto, insomma. Sì, e noi respingiamo una... diciamo, ce lo ricordiamo in che condizioni eravamo, insomma. Sì, sì, è chiaro. Eravamo con la lettera della BCE. Ci hanno presi per il collo, diciamo. Ce lo ricordiamo perfettamente, quindi io penso che il senso di responsabilità del Partito Democratico in quel periodo ci sia stato senso di responsabilità. Poi certo, questa politica dell'austerity ha indubbiamente fallito, lo dicevamo prima, ha fallito sul piano dell'economia, perché molti paesi sono usciti crisi economica con politiche espansive, non con politiche di rigore, di rigidissimo rigore. Quindi dobbiamo uscirne anche noi, perché la politica dell'austerity è questa, e poi ha generato la disaffezione nei confronti dell'Europa, perché obiettivamente i cittadini non hanno visto migliorare la propria qualità della vita. Detto questo, anche noi siamo per andare in Europa a rivedere i trattati e rivedere diciamo, a partire dal patto di stabilità. Noi siamo per dire che oggi noi dobbiamo levare gli investimenti, soprattutto quelli in formazione, quelli, insomma, gli investimenti vanno levati dal patto di stabilità, sì, perché sì, un paese che vuole crescere deve investire, e questo è il primo punto. Sul fiscal compact sapete perfettamente che è il rapporto fra il debito PIL, no? Quindi se noi creiamo le condizioni per aumentare in questo paese la crescita, beh, è chiaro che avremo una condizione di vantaggio anche rispetto al debito. E per aumentare la crescita dobbiamo portare avanti le riforme che abbiamo iniziato a fare, perché per aumentare la crescita ci dobbiamo rendere competitive le aziende, dobbiamo semplificare la burocrazia, sburocratizzarla, cioè dobbiamo fare tutto cose che abbiamo iniziato a fare, sulle quali io chiederei al Movimento 5 Stelle di collaborare, perché è così che si fa crescere il paese. Il non collaborare, ma sul fronte della collaborazione non credo che il Movimento 5 Stelle, chiedo a Carla Ruocco, e tra l'altro credo saluto Simona Bonafè, che so che ci deve lasciare qualche minuto in anticipo. Posso e la ringrazio. Sì, dica. Anche noi chiediamo di cambiare l'Europa, e però non è che noi possiamo andare a chiedere all'Europa di cambiare solo se riusciamo a portare a casa le riforme nel nostro paese, cioè dobbiamo anche fare i compiti a casa, no? Insomma, fare prima i compiti a casa. Noi dobbiamo cambiare le nostre, noi abbiamo che fermo da 20 anni. Allora, o creiamo le condizioni per rimetterci in discussione, poi saremo anche credibili quando andiamo in Europa, dirà l'Europa di no, ma certo, sì, questa è la formula del fare i compiti a casa, viene tradotta così. Allora, onorevole Ruocco, concludo con lei gli ultimi minuti. Intanto la questione è, l'accusa mi sembra di poter dire di Simona Bonafè è che voi proponete, per esempio, appunto, cancellare l'IRAP, dare il reddito di cittadinanza, cioè formule che poi non sono sostenute dai conti pubblici. Lei che fa parte della Commissione Finanze, dia una risposta su questo. Allora, intanto l'accusa ovviamente è falsa, dopodiché sottolineo il fatto che l'onorevole Bonafè non sa cosa sia un DEF. Il documento di economia e finanza è un libro dei bei sogni, non è assolutamente una legge, non è la legge di stabilità, quindi lei ovviamente vuole confondere gli ascoltatori. Il DEF è un libro su cui il governo scrive le intenzioni di ciò che eventualmente farà, e anche quello di Monti si è rivelato poi carta straccia, perché le previsioni erano totalmente alterate. Quindi siamo sullo stesso film. Quindi se imparasse prima a distinguere un DEF da una legge di stabilità, e poi replica alla sottoscritta. Per quello che riguarda ovviamente la nostra collaborazione, noi collaboriamo all'interno delle commissioni sui temi e non sulle chiacchiere pressappochiste che si vanno a raccontare in giro. Le nostre proposte hanno coperture, le coperture ci sono segnalate, e non sono come quelle del Partito Democratico, che poi vengono messe al bando dagli stessi tecnici del Senato, che hanno detto, tanto è vero, che sulla famosa abolizione del solo 10% dell'IRAP non ci sono le coperture. Per esempio sul loro bel DEF già si trovano buchi di coperture. Su questo c'è anche la diatriba sugli 80 euro, no? Tra i tecnici del Senato e Renzi. Film, e vabbè, questo lo scopriremo a breve. Il film che abbiamo già visto e che ha portato l'Italia a 2.000 miliardi e passa di euro di debito pubblico fuori controllo. Onorevole Ruocco, da gente che piuttosto che la trasparenza preferisce i primo aggreganti di turno e la mancanza assoluta di onestà all'interno di un sistema di corruzione che ci costa 60 miliardi di euro. Onorevole Ruocco, le chiedo questo. Allora, ieri Beppe Grillo è tornato, e su queste cose, guardi, io lo dico in maniera molto laica, io sono un giornalista, ma mi viene da ridere quando sento queste cose, perché io non mi identifico in una categoria. Io sono Alessandro Mina e faccio il giornalista, potrei fare il tranviere, potrei fare il panettiere, faccio il giornalista, ma non mi sento un giornalista. Però senta Beppe Grillo, no, quello che ha detto. Abbiamo i giornalisti, che è la prima categoria che io metterei come responsabile, perché ci hanno fatto precipitare al 68esimo posto per la libertà di stampa. Siamo un paese semilibero e dovranno affrontare le loro responsabilità in rete, sempre in forma virtuale. Quindi niente di violento, di aggressivo. Per carità, non c'è niente di violento, ma questa storia dei processi sulla rete, ma che vuol dire? Cioè, non sa che proprio non la capisco. Non intanto le volevo... guardi, ha ragione. Intanto guardi, vorrei dire che Beppe Grillo con questa affermazione ha anche fatto onore alla categoria dei giornalisti, perché ne ha suggellato comunque l'importanza all'interno di un sistema, la responsabilità. L'importanza negativa però. Perché probabilmente i giornalisti hanno le loro pecche nell'informazione. Ma come tutti, tutti. Lo so, però bisogna che i giornalisti se ne facciano ammenda. Poi per quello che riguarda i processi, è una brutta parola perché è usata anche e abusata ormai, ma in realtà il processo, quello che si vuole definire in questo contesto come processo, è semplicemente il fatto di sottoporsi, tra virgolette, ad un giudizio di una popolazione più ampia, che non sia sempre la solita casta che magari decide chi deve fare che cosa all'interno di un sistema. Quindi questa è la nostra politica, è quella di aumentare la platea delle persone che possono in qualche modo dare un'espressione di opinione su una categoria di giornalisti. Ma certo, ma uno l'opinione la dà comprando un giornale, ascoltando una radio, guardando un programma. Lei ha ragione, però è vero pure che se i giornali sono tutti o quasi tutti faziosi, io non compro un giornale, ne compro un altro, ma comunque sono in un sacco. Insomma, certo, lei dice comunque la si muove, comunque si gira, è in difficoltà. Va bene, affronteremo questo tema magari dopo le elezioni, quando il clima sarà anche meno surriscaldato. Ringrazio Carla Ruocco, Movimento 5 Stelle, Simona Bonafè, l'appuntamento è rinnovato a domattina 6:30 puntuali.